Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Finalmente il 10 giugno ho ricevuto un'email in cui mi si avvisava che, dato lo sciopero dei tassisti, il giorno seguente si prevedeva un grande numero di chiamate, di tenersi pronti. Il giorno dopo, verso le 9 di mattina, partivo con la mia auto. Sono Gabriele, vivo alle porte di Milano, a Bresso. Sono sposato da 8 anni con 2 bambini di piccolini di meno di 3 anni. Ho lavorato per tanti anni in delle multinazionali e adesso sono a casa a fare un po' il papà. Prima di tutto, prima di cominciare con la storia di Gabriele, prima di dare una comunicazione che riguarda una chiamata nuova di storie che voi siete qui, rispondo a un messaggio che è arrivato prima di andare in onda di Nazareno che chiede: chiedo conferma, è questo il cellulare di Radio 24? Sì, Nazareno, è questo. 349-238-6666. Buongiorno a tutti, questa appunto è Radio 24, quello è il suo cellulare. Io sono Matteo Caccia, il programma è Voi Siete Qui. Sono le 16:08, quasi 9 minuti in punto. Noi raccontiamo storie come tutti i giorni. Oggi raccontiamo la storia di Gabriele, che fa per una volta un lavoro nuovo. Quindi cercate di fare mente locale per 30 secondi. Adesso, qualsiasi lavoro stiate facendo, vi è mai capitato di fare un lavoro per una volta sola, per un giorno solo? Vale anche andare a fare i palloncini alle feste per i bambini, lo dico perché lo abbiamo fatto. Vale anche fare il bagnino o aggiustare gli ombrelloni sulle spiagge, lo dico perché Paolino Corleoni lo ha fatto, anche se per più di una volta. Un lavoro fatto una volta sola nella vostra vita. 349-238-6666, il profilo Facebook, Voi Siete Qui, Radio 24, o il profilo Twitter gestito magnificamente da Miriam Lucchetti dall'altra parte del vetro, Voi Siete Qui, R24. In realtà faccio un po' finta, Tiziano, di non ricordarmelo, perché Bonini mi guarda sempre con una faccia e mi dice: oh, il profilo Twitter. Oh! Settimana prossima, però, succede una cosa qui a Radio 24 che è molto nobile e che quindi ha bisogno di essere supportata. Tutta la radio, settimana prossima, ad un mese di distanza dall'alluvione di Genova, all'interno dei diversi programmi della radio, andrà a vedere con persone che sono là, con reportage, insomma, con chi sa fare l'informazione e con chi la fa qui in radio. Racconta che cosa è successo a Genova e che come si sente Genova, come sta Genova e i genovesi a un mese di distanza da quel giorno che ha causato, insomma, quello che sappiamo. Noi quindi lo chiediamo a nostro modo, lo chiediamo al modo di Voi Siete Qui, lo chiediamo alle persone che sono commercianti, che sono quelli che sono stati probabilmente più colpiti da questa alluvione, perché hanno perso locali commerciali, hanno perso materiale con cui lavorano, hanno perso magari automobile con cui lavoravano. Quindi, se avete avuto dei danni causati da questa alluvione, dei danni legati alla vostra vita professionale, avete voglia di mandarci, non tanto davvero, non ci serve una storia intera questa volta, ci bastano 10 righe. Voi siete qui, @radio24.it, o anche il profilo Facebook va benissimo, come messaggio privato o come post sul nostro profilo Facebook. Voi siete qui, Radio 24. Vi dicevo, se avete un lavoro che è stato toccato e di conseguenza la vostra vita è stata toccata da quell'alluvione, noi siamo qui e giovedì prossimo racconteremo delle piccole storie legate a questo avvenimento. Voi siete qui, @radio24.it. Ma è arrivato il momento di raccontare la storia di Gabriele, che per un giorno fa un mestiere completamente diverso dal suo. Ad esempio Andrea scrive subito: venduto collanine fosforescenti ad un concerto perché ero privo di biglietto. Per una notte ho tirato i risciò di corsa a Dublino, a Temple Bar e zone limitrofe. 349-238-6666. Vi dicevo, Gabriele, lo avete sentito, è a casa a fare il papà perché ha problemi a trovare lavoro, e un giorno raccoglie un'offerta, che è un'offerta anche piuttosto chiacchierata in questo periodo, perché è un'offerta che si trova negli smartphone, che insomma che vive e che lavora attraverso gli smartphone e che ha a che fare con il trasporto pubblico in questa città, ma non solo. È un servizio che si trova qui e che fa molto molto arrabbiare i tassisti. So che abbiamo tantissimi tassisti all'ascolto, che ascoltano la radio, che ascoltano il programma, e quindi gli chiedo, come dire, di provare ad ascoltare per una volta a quelli che stanno dall'altra parte, come è successo a Gabriele, che per una volta ha provato a fare, non il tassista ovviamente perché non si può fare pronti via, ma fare l'autista per questa app che tutti conoscono e che ha fatto tanto baccano. 349-238-6666. Non dicevo, credo, la parola baccano dal 1984, quando la dissi a mia nonna. La storia di Gabriele e della sua automobile. L'11 giugno di quest'anno, del 2014, è stata una giornata torrida, in particolare a Milano, dove si sono raggiunti i 37 gradi all'ombra. Ed era anche la giornata in cui i tassisti di quasi tutta Europa scioperavano contro le società che forniscono servizi di noleggio di autisti via internet, come appunto Uber. Uber, per chi non lo sapesse, è una app che si scarica sul proprio cellulare e permette di avere una mappa con indicati gli autisti liberi nei paraggi e quindi chiedere il servizio a noleggio. Si divide in due categorie: Uber classico, cioè con mezzi guidati da autisti NCC su berline di lusso che svolgono un servizio pubblico e per esempio hanno diritto di accesso nelle corsie preferenziali, e poi l'altro, che si chiama Uber Pop, il cui costo è minore e i cui autisti sono normali automobilisti che non hanno accesso gratuito ovviamente alle ZTL e non possono usare le corsie preferenziali e, come le loro auto, devono solo rispettare certi standard minimi, che sono ad esempio un punteggio di patente alto, mancanza di precedenti penali, autovettura in buone condizioni con meno di 7 anni. Insomma, un po' per curiosità, un po' perché il mio stato di disoccupazione, ormai di parecchi mesi, non mi permette di percepire alcuna indennità, mi sono candidato tramite il loro sito per fare l'autista. Ho lavorato come credit manager di una multinazionale di processori per computer. Sono a casa ormai da un anno, da settembre dell'anno 2013. Fatto un colloquio di gruppo, io e la mia auto abbiamo passato la selezione e ho ricevuto un iPhone opportunamente modificato che svolge la funzione di navigatore e localizzatore, oltre che di tassametro, addebitando sulla carta di credito del cliente l'importo a fine corsa, senza utilizzo di contante. Questi telefoni sono bloccati per qualsiasi altro utilizzo, per cui durante il servizio bisogna tenere il proprio cellulare acceso, dato che il proprio numero viene fornito in automatico per ogni necessità o imprevisto ai clienti che prenotano la corsa. Quindi, speranzoso, per fare esperienza, faccio i primi tentativi in momenti di traffico più tranquillo, durante un paio di sabati mattina. Seguendo i consigli ricevuti, ho girato lungo la cerchia dei Navigli di Milano. Il risultato è che sono riuscito a fare una sola corsa, per giunta molto breve. 10 minuti per 6 euro addebitati al cliente, di cui mi sono aspettati l'80%. Almeno però avevo provato il meccanismo. Finalmente il 10 giugno ho ricevuto un'email in cui mi si avvisava che, dato lo sciopero dei tassisti, il giorno seguente si prevedeva un grande numero di chiamate e quindi di tenersi pronti. Il giorno dopo, verso le 9 di mattina, sono uscito con la mia macchina. E abitando al confine della città, dove il Seveso si intomba a Milano, appena entrato in città ho ricevuto una chiamata da un cliente presso un albergo in zona Piazza della Repubblica. Unsentimental, driving around, sure of myself, sure of it now. You stand so close to me, like the future was supposed to be. In the aisles of the grocery, in the blocks uptown, I remember, remember well. But if I'd forgotten, could you tell? In the shadow of your first attack, I was questioning and looking back. You said, baby, we don't speak of that, like a real aristocrat. Compound to compound, lazy and safe, wanting to leave it. Era una famiglia appena trasferitasi da Londra, con capofamiglia italiano, madre indiana e due bambini, di cui la più grande, di 5 anni, doveva iscriversi ad una scuola inglese nella zona nord-est di Milano. Lui, appena assunto da una banca, aveva lavorato in Lehman Brothers, poi, dopo il fallimento della banca, aveva aperto un ristorante italiano a Londra, che dopo 3 anni aveva rivenduto, e ora aveva trovato questa nuova opportunità con una banca tedesca. Ci siamo accordati per il ritorno dopo un paio d'ore, dato che il bambino piccolo di neanche un anno aveva la febbre a 39 e voleva avere la certezza di poter tornare in albergo. Io, nel mentre, ho preso una chiamata di un ingegnere che doveva andare ad Agrate. Gli ho raccontato che lavoravo nel settore IT e che anche la mia vecchia azienda aveva fatto uno spin-off delle memorie e che anche nel nostro caso l'azienda distaccata era poi fallita. In seguito ho trasportato una simpatica modella brasiliana, con due bagagli da 50 kg l'uno, diretta in una zona semiperiferica della città, dove, dopo aver parlato in inglese del caldo milanese e delle alluvioni in Brasile, mi sono sentito in dovere di aiutarla coi pesantissimi bagagli fino all'androne del palazzo. Poi, un gruppo di tre ragazzi americani che mi hanno sorpreso mentre sgranocchiavo i pochi taralli che mi hanno fatto da pranzo, ma che hanno apprezzato l'aria condizionata e la programmazione old style di Rai GR Parlamento, quando non ci sono le dirette dal Parlamento. Ascolto anche Radio 24, in realtà, e a volte mi piace anche interessarmi di politica in senso stretto e ascolto anche GR Parlamento, perché a tempo perso faccio anche il consigliere comunale. E che cosa potevo dire al ragazzo siciliano laureando in marketing alla Bocconi che di solito utilizza il car sharing, ma non stavolta, che andava a fare un colloquio alla Microsoft in mezzo alle risaie, dove due navigatori su tre di quelli a disposizione sono andati in tilt. In bocca al lupo, ed è quello che ho fatto di cuore. Auguri anche allo studente canadese di Toronto di etnia cinese che andava a trovare i parenti a Shanghai dopo 6 mesi di scambio universitario, sempre in Bocconi, con cui si è parlato di esami universitari troppo facili da quando sono divisi in tanti compitini e con poca selezione all'ingresso, e anche di schede grafiche per gaming progettate proprio in Ontario dall'azienda in cui lavoravo. Infine, verso sera, da via Senato, un simpatico signore un po' sovrappeso che si era fatto prenotare la chiamata da un cellulare non suo doveva raggiungere un albergo nei pressi della stazione centrale. Io, come da raccomandazioni ricevute, l'ho fatto sedere nel sedile anteriore per evitare di essere riconosciuto dai tassisti in rivolta. E un po' per la stanchezza, un po' per il caldo, un po' perché ero stato recentemente in un albergo in quella zona ad un'assemblea, ho sbagliato lato della piazza. Per cui, io e il mio cliente, siamo passati proprio sotto gli striscioni dei tassisti inferociti che per fortuna non hanno capito cosa stessi facendo. Il signore, forse un po' confuso dal tipo di servizio e da quello che aveva visto, una volta arrivato voleva pagarmi cash, ma gli ho spiegato che il giro turistico, con tanto di manifestazione sindacale inclusa, era già stato conteggiato dal tassametro virtuale dello smartphone che lui non aveva. Per gli amanti dei numeri, a fine giornata, dopo 10 ore di servizio, ho contato 11 corse, per una percorrenza media di 15 km a chiamata, un addebito medio di 12,5 euro a cliente e per me un incasso medio di 10 euro a corsa, per un totale di 110 euro. Considerando i 20 litri di benzina consumati in un percorso urbano, i rischi di incappare in qualche telecamera, fatti due conti sul costo di ammortamento dell'auto, sono arrivato alla conclusione che il gioco non vale la candela, ma che comunque è stata una bella esperienza. Faccia simpatica Gabriele, con i capelli non tantissimi devo dire e corti, ha un pizzetto e un sorriso appena accennato, alle sue spalle la bandiera della pace. Pronto Gabriele, buongiorno. Buongiorno a lei. Come sta? Diamoci del tu, ti prego. Sì, va bene, sto benissimo. Sono contento di aver sentito la mia storia raccontata sulla radio e Bene. Che molta gente possa averla sentita. Mi fa piacere. A questo proposito, guarda Gabriele, prima di andare avanti, permettimi di rispondere a Silvio, che mi ha scritto un messaggio al 349-238-6666, mi dice, ma se Gabriele lavorasse ad Uber e la storia fosse inventata, sarebbe pubblicità gratis. Silvio, se tu hai ascoltato la storia fino alla fine, evidentemente, diciamo, le ultime parole di Gabriele sono tutt'altro che pubblicità, considerato che lui conclude dicendo il gioco non vale la candela. Giusto, Gabriele? Sì, soprattutto per chi fa l'autista. Per l'utente forse, soprattutto per alcune tipologie di corse, il vantaggio è innegabile. Però questo. Però dico, per chi sta seduto al volante, come dicevi tu, fatto due calcoli. Insomma, tu non l'hai più fatto, mi sembra di capire, o c'ho io? No, assolutamente non l'ho più fatto, perché non c'è un ritorno economico che è sufficiente. Vantaggioso. Gabriele, dicevi che adesso stai facendo il papà, gioco forza, perché non riesci a trovare lavoro. Che cosa hai fatto fino a un anno fa? Io ero credit specialist, però facevo anche credit manager, come ho scritto, in una multinazionale di processori americana. Seguivo la clientela di tutta EMEA, quindi Europa, Medio Oriente, okay. Africa, Est Europa anche in particolare, e insomma un ruolo di grande responsabilità, assieme al mio capo, che era il vero credit manager europeo, e eravamo in due che tenevamo le fila. E poi cosa è successo? È proprio fallita la società o hanno... Sì, la società ha perso $1 miliardi nel 2012. Ah, una robina così, insomma. Okay. Su 6 di fatturato, quindi hanno tagliato un po', diciamo, ad alzo zero, hanno tagliato in maniera drastica, quindi hanno preferito rinunciare addirittura alla funzione del credit nella nostra regione, che è stata una scelta un po' particolare, che non, dai bilanci che vedo, non è che abbia fruttato dei grossi risultati, visto che il DSO è aumentato, è triplicato. Gabriele, tu in che modo cerchi? Com'è che lo cerchi lavoro? A chi ti rivolgi? Siti internet specializzati? Sì, fondamentalmente sì. Sì, fondamentalmente sì, anche ultimamente vedo che comunque il mercato del lavoro, delle offerte si sta muovendo abbastanza. Purtroppo ho notato che molte delle aziende che cercano sono aziende che hanno già subito ristrutturazioni, che magari cercano di accorpare in un'unica figura il credit manager e il treasury manager, quindi con doppia responsabilità, tempo per la vita privata penso limitatissimo, anche perché chiedono di sviluppare a volte una funzione come da ex novo, ma soprattutto per l'Italia, e retribuzioni che sono impiegatizie, non a un certo di grande livello. Tu hai due figli tu, Gabriele, mi dicevi? Sì, due bambini. Quanti anni hanno? Ce n'è uno di 3 anni che adesso sta uscendo dalla scuola materna, e l'altro di 10 mesi che è di là in camera che dorme. Ah, sono proprio piccini. Ma c'è qualcuno che lo va a prendere alla scuola materna? Sì, va la mamma. Ah, ok. No, perché mi immaginavo questo bambino che usciva dalla scuola materna e non ti trovava, e non trovava nessuno. Ma in teoria devo uscire, devo andarlo a prendere io. In effetti, poi con la... il dato che riceve questa telefonata si è offerta mia moglie, se no avrei magari risposto nel caos di un asilo. Okay. Non era il caso. Gabriele, ti ringrazio per la chiacchierata e per la storia, e ovviamente in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao, a presto. Ciao. E alla fine, dalla storia di Gabriele, ho capito un po' di cose. Ho capito che, primo, fare l'autista è una faticaccia. Secondo, fare l'autista è una faticaccia, però incontri una marea di persone. Terzo, i tassisti, quando sono arrabbiati, fanno davvero paura. Quarto, le modelle si vestono poco, ma hanno sempre delle valigie pesantissime. Quinto, alla fine, quando il gioco non vale la candela, c'è proprio poco da fare. Sono arrivati un sacco di messaggi di persone che hanno fatto un unico lavoro per un giorno, tipo Marco, ciao, ho fatto il modello per un giorno a Lugano, la foto ha fatto il giro del mondo, ho guadagnato 150 franchi svizzeri, che adesso al cambio non saprei proprio proprio dire. Ho fatto tante volte lavori estemporanei. Una volta era il 1981 con un'altra ventina di ragazzi da tutta Europa. Abbiamo allestito i tavoli per un pranzo per oltre 1000 persone ad Hyde Park, Londra, alla cena annuale del gruppo di acquisto Gas. Ho cucinato il bruschett, un ragù tradizionale di zona Abbiategrasso, per un centinaio di persone. Marina, il mosciolaro, per un solo giorno della mia vita a 20 anni ho avuto l'onore di fare questo lavoro. Indovinate che cos'è? Non lo so. Mi piace, è pesce. Paolino Corone dice pesce. Ho spillato birra e preparato dolce caffè per la pizzeria della cugina di mia moglie. L'ho fatto per piacere per qualche volta, ma era solo una volta. Lavoravo per una ditta farmaceutica da 20 anni. Ieri pomeriggio ho tentato di insegnare italiano a 2 immigrati pakistani che parlavano solo pakistano. Non so quanto hanno appreso, ma ci siamo ammazzati dalle risate. Rispondo anche al messaggio che mi chiede se il programma del sabato, cioè i diari di Voi Siete Qui, va in replica, e la risposta è sì, va in replica come Per Voi Siete Qui, il giorno dopo alle 5, quindi domenica mattina, visto che di solito alle 5 del mattino la domenica si è soliti alzarsi per andare a pesca ad esempio, o perché si ritorna dalla discoteca, vi ascoltate la replica dei diari di Voi Siete Qui. Se avete voglia di partecipare ai diari di Voi Siete Qui, il programma del sabato, tutti i sabati alle 14:30, ci mandate una pagina di diario vostra, di un parente, di una persona sconosciuta ma che avete tra le mani. A differenza di come ho detto però la settimana scorsa, magari se non ci mandate le foto, ma ci mandate una trascrizione è meglio. Vi prende un po' più di tempo, però per noi è un po' più facile, perché dopo averlo detto sono arrivate una serie di foto per cui Miriam Lucchetti mi ha guardato come dire: tu sei veramente scemo, perché sono sostanzialmente incomprensibili. Molte scritte con la grafia magari degli anni 50 o degli anni 30, ed è ancora più complicato. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleoni, grazie a Miriam ovviamente, grazie a Tiziano Bonini, grazie soprattutto a Gabriele, perché la storia di oggi era la sua, e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Alessandra, sono di Caserta e la storia di domani è la mia e parla di Santino e Sara e della loro bellissima storia d'amore. Questa è la mia storia e io sono qui.